Una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti. Il programma prevede di parlare dell'arte di concentrarsi, di nobiltà a cavallo, nonché di quel che accadrà, ma dopo la rivoluzione, insomma.